ad alta voce. Valentina Carnelutti legge Lida Mantovani di Giorgio Bassani. Abbiamo tante altre cose da dirci. Questo affermava Oreste ad ogni commiato, o almeno promettevano in silenzio i suoi occhi seri, dolcissimi. A parlare in realtà era sempre lui. Quando non si lasciava trasportare dall'onda dei soliti ricordi riguardanti sia gli anni che da ragazzo aveva trascorso in seminario, sia la guerra da lui combattuta più tardi in trincea sul Carso, si imbarcava in lunghi monologhi incentrati di preferenza sulla religione e soprattutto sui recenti e risolutivi sviluppi della politica che la religione interessavano così da vicino. Dopo la firma dei patti lateranensi del febbraio di quello stesso anno, il suo patriottismo aveva cominciato a effondersi liberamente, entusiasticamente. Brava la Chiesa, diceva, che in vista del bene dell'Italia e del mondo aveva saputo porre nel dimenticatoio qualsiasi questione di puntiglio e di rivalsa, ma bravo però anche lo Stato italiano, a cui bisognava riconoscere il grosso merito di aver imboccato per primo la strada della conciliazione, ed era chiaro, mentre così si esprimeva, che la Chiesa e lo Stato gli stavano dinanzi coi volti di un uomo e di una donna, i quali, lasciatisi alle spalle un lungo periodo di rapporti difficili, spesso turbati da crisi violente, avevano deciso finalmente di sposarsi. E da ora in poi quanti bei fatti sarebbero successi, continuava a dire con occhi esultanti. La primavera già in arrivo avrebbe veduto aprirsi l'era della pace e della gioia perpetue, rinnovarsi la mitica età dell'oro. Secondo il precetto della Bibbia e del Vangelo, secondo il sogno e la profezia di Dante Alighieri, Chiesa e Stato si sarebbero riconosciuti sostanzialmente concordi. Il prete non sarebbe stato più né perseguitato né tenuto in sospetto. La società civile non lo avrebbe più respinto, ma lo avrebbe accolto come un padre da ascoltare e da venerare. E se oggi come oggi la rinascita di un partito cattolico vero e proprio, tipo il PP per intenderci, sarebbe stato azzardato sperarla, non importa. Per adesso i risultati raggiunti potevano più che bastare. Non era poco, diciamo pure la verità, aver ottenuto che la C e quei giovanotti dell'FUCI fossero lasciati in pace. Non era poco, anzi era moltissimo ritrovarsi in grado di benedire serenamente nel tricolore con sopra tanto di stemma sabaudo la bandiera della patria. Sullo slancio dell'intensa commozione provocata in lui da questi discorsi, ma cambiando tono, veniva infine a parlare di loro, di sé e di Lida, e in specie del villino fuori porta San Benedetto dove a maggio, all'indomani delle nozze, sarebbero andati a stare. Si lamentava, se la prendeva col muratore perché una parete scialbata di fresco trasudando umidità appariva qua e là macchiata, col carpentiere a causa di una serranda che non funzionava, col geometra per i suoi modi bruschi, scortesi, ma poi, non appena passava a illustrare il luogo dove il villino sorgeva, ecco il suo volto spianarsi, rischiararsi tutto. Il villino si trovava in fondo a Corso San Benedetto, ripeteva per l'ennesima volta, e pareva che stesse accingendosi a descrivere certi aspetti molto particolari, anzi addirittura segreti, di una città lontana, lontana, infinitamente più bella e amena e ospitale di Ferrara. E cioè in quella zona di là dalle mura, situata all'incirca fra la barriera del Dazio e il cavalcavia della linea ferroviaria che negli ultimi anni era venuta punteggiandosi di case grandi e piccole. Quale più, quale meno, ciascuno stabile disponeva di un terreno proprio da coltivarsi a orto o a giardino. Loro due avrebbero respirato aria buona da quelle parti, ah, aria di campagna. E a questo punto, come soverchiato, la felicità già in vista, già a portata di mano, dalla quale erano attesi, quella evidentemente preferiva rinunciare a descriverla, a questo punto taceva. Thank you. Venne maggio. Negli ultimi giorni Oreste aveva perduto la calma. Appariva un tratto pieno di paura, di angoscia. Al matrimonio si era sempre riferito indirettamente, cenni, allusioni e basta. Adesso, invece, dopo essersi accontentato per anni di una promessa nemmeno formulata a parole, dopo aver consentito a qualsiasi dilazione, voleva far presto, non perdere un giorno solo. La data della cerimonia era stata decisa da tempo, si sarebbero sposati all'inizio della terza settimana del mese. Ebbene, perché non anticiparla, la data del loro matrimonio? Arrivò a proporre. Cosa aspettavano ancora a fare? Stupita, Lida lo guardò. Non capiva. Come mai all'improvviso tutta quell'ansia? Gli chiese. Perché era così cambiato? Tardò un poco a rispondere. La fissò con occhi disperati. Poi disse piano: io sono come quei cavalli che scoppiano sul traguardo. Parlò quindi del matrimonio, di ciò che il matrimonio rappresentava per lui. Disse che lo considerava lo scopo supremo della sua vita, giacché soltanto dopo essersi sposato, non prima, gli sarebbe forse venuto il coraggio di invocare sopra di loro la protezione della divina provvidenza. Certo, ammise annuendo gravemente, fino ad allora lui non le aveva mai fatto fretta. Ma d'altra parte come avrebbe potuto fargliene, sentendo come sentiva di non poter contare che sulle proprie forze? Lida stava ad ascoltarlo. Continuava a non capire. Le bastò tuttavia alzare di nuovo gli occhi e subito si rese conto. Oreste temeva ancora di perderla. Protendendosi attraverso il tavolo, posò una mano su quelle di lui, strette più che mai insieme nel solito groppo spasmodico, e un attimo più tardi, per la prima volta, si trovava fra le sue braccia. Gli anni che seguirono, laboriosi, tranquilli, sostanzialmente felici, non dettero luogo ad avvenimenti di rilievo. Perfino gli inverni, diceva Oreste, il quale morì però molto presto, nella primavera del 38, sembravano aver messo giudizio per sempre. È vero che ogni anno, verso la fine dell'autunno, amava ancora soffermarsi davanti ai vetri delle finestre nell'atteggiamento di chi studia il tempo. Ma lo faceva non già perché dubitasse, si poteva esserne certi, dell'esattezza delle sue previsioni, ferme adesso sul bello stabile o quasi, bensì allo scopo di meglio assaporare l'intimo piacere che doveva procurargli la proprietà di una casa nuova, moderna, fornita di tutto il necessario per viverci comodi, in modesta agiatezza, incluso un ottimo impianto di riscaldamento centrale. Era evidente, insomma, che il futuro non lo preoccupava più, sotto nessun aspetto. Dopo il matrimonio, Lida si era subito conformata alle sue abitudini devote, prendendo a frequentare con regolarità la non lontana chiesa di San Benedetto, appena dentro le mura. Inoltre, si era ingrassata. La ragazza magra, limata dall'ansia degli anni che lui aveva cominciato a farsi vedere in una certa stanza di via Salinguerra, era ormai diventata una bella sposa, calma, serena. Un po' pingue. Cos'altro gli rimaneva da desiderare a lui d'ora in poi? Che cosa di migliore? Talvolta, a proposito della bellezza di Lida, ci scherzavano sopra assieme. Meno incredula di quanto non volesse apparire, lei si schermiva. Io bella? Altro che, rispondeva lui sorridendo, mentre con una punta d'orgoglio la guardava dritto negli occhi. E tuttavia non c'era neppure di ciò, proseguiva tornato già serio, da meravigliarsi proprio per niente. Questa sua nuova bellezza, così giusta e opportuna, così da moglie, della quale non gli pareva in fondo presuntuoso attribuirsi una parte di merito, arrivava in buon punto a dimostrare, seppure ce ne fosse stato ancora bisogno, che la loro unione, il Signore, l'aveva non soltanto approvata, ma anche gradita. È stato felice, si diceva Lida a volte. Se non che, non appena le accadeva di formulare mentalmente queste parole, ecco una specie di risonanza interna subito deformarle, distorcerle. Intrise di dubbio, di invidia dolorosa, si trasformavano in una domanda alla quale nessuno e lei per prima sarebbe stato in grado di rispondere altrimenti che con un no. Povero Oreste. Anche lui non era stato felice, no davvero. Qualcosa anche a lui era sempre mancato. E bastavano a provarlo le cure tenerissime, più che paterne, di cui per anni, per tutti gli anni del loro matrimonio, aveva fatto oggetto Ireneo. Quando Ireneo era uscito dal seminario con la licenza media inferiore in tasca, Oreste lo aveva immediatamente preso con sé in bottega, dove tra la macchina rifilatrice e la porta a vetri gli aveva sistemato un piccolo banco. Gli aveva voluto insegnare il mestiere, e a lei, che certi pomeriggi sull'imbrunire attraversava mezza città per raggiungere la legatoria di via Salinguerra. Più tardi tornavano verso casa tutti e tre in compagnia, risalendo la Giovecca o via Mazzini, ma passando ogni volta davanti al caffè della Borsa in pieno centro. A lei pareva ancora di vederlo mentre da dietro il banco grande covava con occhi ardenti di zelo affettuoso quell'allievo così triste, così silenzioso e insieme così pronto a distrarsi per la minima cosa che succedesse fuori nel piazzale antistante. Le pareva ancora di vederlo, di udirlo, con quel suo torso vigoroso, sproporzionato rispetto alla misura delle gambe, che si ergeva sullo sgabello di là dal banco, con quelle sue mani grosse e dure, stranamente ingentilite dalla fede matrimoniale. Del loro anello non volle separarsi mai, nemmeno nel 35, all'epoca delle sanzioni. Con quella sua voce forte, allegra, squillante. Oh, quanto doveva avere lottato perché lei, Lida, non si accorgesse del suo desiderio di un figlio. Come doveva essersi segretamente tormentato, se quasi a punire il proprio desiderio, a soffocarlo dentro se stesso, a un certo punto aveva perfino preteso che Ireneo assumesse il suo cognome. Eppure, nonostante tutto, pensava Lida, Oreste non aveva mai cessato di sperare. Per esserne certa, le era sufficiente ricordare l'occhiata che sempre le rivolgeva ogni qualvolta la vedesse entrare in bottega. Un'occhiata interrogativa ma tranquilla, piena di una fiducia incrollabile. Se non adesso, così diceva il suo sguardo, presto, molto presto, lei gli sarebbe venuta incontro con la grande notizia. Gli avrebbe dato un figlio, sicuro, che fosse sul serio suo, del suo sangue, e perciò diverso nel fisico e nel carattere dal figlio che lei aveva avuto prima di sposarsi, il quale, sebbene lui gli avesse dato il proprio cognome, sebbene gli venisse insegnando il proprio mestiere con tutta la passione di cui era capace, ciò non di meno non aveva mai voluto chiamarlo altro che zio, zio Oreste. Un figlio sul serio suo, pensava Lida ancora. Questa la cosa che gli era mancata, questa l'unica ombra che avesse turbato la serenità della loro vita coniugale. Per tornare a parlare di quell'età dell'oro della quale nel febbraio del 29 aveva predetto il ritorno, non aspettava evidentemente che di sentirle dire «sono incinta». Era chiaro però, con altrettanta evidenza, che la morte, cogliendolo di sorpresa, aveva prevenuto l'insorgere in lui di qualsiasi principio di disperazione. La quinta puntata di Lida Mantovani di Giorgio Bassani, letta da Valentina Carnelutti per Ad Alta Voce, che è un programma a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e con Luigi Iavarone, da scaricare ovviamente in podcast da adaltavoce.rai.it e da continuare a seguire, perché la prossima settimana ancora Giorgio Bassani, in questo caso Maria Pagliato, leggerà Gli ultimi anni di Clelia Trotta.